Italia in controluce. La crisi del Movimento 5 Stelle, questo è il tema di oggi, 29 maggio, ore 13:31, in studio Daniele Biacchessi, come ogni giorno a raccontarvi i fatti del giorno. I dati parlano comunque chiaro, la flessione tra politiche amministrative 2013 e il Movimento 5 Stelle oscilla tra il 10 e il 20% in meno, questo lo dicono i dati. Grillo in queste ore se la sta prendendo con gli italiani che avrebbero votato i peggiori, così dice, ma il malessere nel movimento sembra molto alto. In molti parlano di scissione, le critiche contro Grillo sono ormai alla luce del sole e non viaggiano più soltanto sul suo blog. Secondo voi è finita la parabola ascendente, positiva del Movimento 5 Stelle, oppure il dato che abbiamo visto nelle amministrative, nelle recenti amministrative, è un dato che è drogato sicuramente dalla percentuale molto alta di astensioni? Ha ragione Grillo quando dice che gli italiani hanno votato l'Italia peggiore, cioè quella che Grillo definisce l'Italia dei partiti. E ancora, il Movimento 5 Stelle, per riattivare l'iniziativa politica, deve accettare le aperture che sono arrivate questa mattina sulle pagine del Messaggero di Matteo Renzi, che invita il Movimento 5 Stelle a collaborare con il PD. È di poco fa la notizia che per Grillo non c'è stato nessun flop del Movimento 5 Stelle, ma c'è stato un crollo invece dei partiti. Cosa ne pensate? 349-238-6666, subito con Alessandra Schepisi, poi sentiremo una delle interviste che ha fatto Alessandra a Federica Daga dal Movimento 5 Stelle. Alessandra. Sì, buongiorno Daniele. Così c'è chi parla di flop, chi di battuta d'arresto, chi invece minimizza, ma di certo il risultato elettorale del Movimento 5 Stelle fa discutere, agita la base. Tra l'altro voci di corridoio parlano di un gruppo di almeno 10 parlamentari dissidenti pronti a staccarsi, a confluire nel PD. Domani ci sarà un'assemblea dei parlamentari grillini per fare il punto. Non c'è l'ordine del giorno, ma di certo si analizzerà quanto accaduto. Intanto Grillo, come dicevi anche tu, poco fa è tornato a parlare dal suo blog, e questa volta per contestare l'idea del flop. Ricordiamo che appunto ieri aveva puntato il dito contro gli elettori del PD e del PDL, colpa loro, aveva detto in sostanza il leader del movimento, elettori che hanno votato solo per preoccupati dei loro interessi, hanno votato chi li rassicura, una strada che però non aveva fatto breccia né tra i parlamentari né sul blog, dove in tanti avevano attaccato il leader. E di fronte un po' a questo malcontento, oggi Grillo ha risposto, è tornato a parlare dal blog dicendo: se crollo c'è stato è quello dei partiti tradizionali. Ha pubblicato un raffronto dei risultati del PD e del PDL tra il 2008 e il 2013, ha dato la colpa ai media, ha detto sono dati che non vengono mostrati. Insomma, Grillo torna all'attacco, dice, poi mette in guardia, dice chi parla di accordo con il PD è fuori, questo vale anche per i ballottaggi, un messaggio dunque ai ribelli. E chi in queste ore si interroga con molta forza sulla mancata alleanza con il PD, oltre che su altri errori come la chiusura ai talk show, le mancate alleanze, le divisioni appunto sulla diaria. E quanto ai parlamentari, ieri ognuno diceva la sua, c'è chi si riteneva soddisfatto, chi parlava apertamente di sconfitta, chi di necessaria riflessione, chi di problemi di comunicazione. Si andava un po' in ordine sparso, la sensazione è che oggi la linea sia quella di far parlare i capigruppo, di distinguere tra elezioni amministrative e politiche. Pochi i parlamentari che hanno voluto commentare questa mattina, molti si sono trincerati dietro un no comment, e appunto, come dicevi tu, c'è una parlamentare appunto che ha voluto rispondere, Federica Daga. Ecco, veniamo Federica Daga, la sentiamo dopo. Cominciamo con i vostri sms, sono tantissimi come sempre, 349-238-6666. Per un ascoltatore dice che non è assolutamente finita per il Movimento 5 Stelle e che dobbiamo dare cortesemente i dati del calo astronomico del PD e del PDL. Probabilmente il nostro ascoltatore non sente proprio tutto il giorno la radio, ma del resto non è colpa sua, comunque non noi questi dati li abbiamo offerti più volte e abbiamo detto che il PD e il PDL sono in calo da moltissimo tempo, quindi non soltanto dal 2008, ma anche nel 2008 sicuramente, con percentuali piuttosto alte, ma oggi stiamo parlando del Movimento 5 Stelle. Dunque, c'è chi dice, Max da Como dice che che falso i dati, se non voglio crederla schierato, devo pensare che non sia abbastanza informato. Eccoci qua, vada a vedere i voti e gli raffronti. Sono andato a vedere, cioè tra il 2013, febbraio e maggio, come dicevo, la flessione tra politica amministrativa, non so se la letti bene lei, caro Max da Como, oscilla tra il 10 e il 20% in meno. Ci sono delle città, a Viterbo, dove il Movimento 5 Stelle ha perso il 28%. Vada a rileggersi con attenzione i dati. Gli elettori che avevano votato Grillo volevano il cambiamento e non chiacchiere, un altro ascoltatore. C'è chi dice che odiamo la Lega Nord, noi non abbiamo neanche parlato oggi di Lega Nord e va bene. Purtroppo contro tutto sempre non paga, dice Mara da Brescia. Hanno avuto una grande opportunità, potevano governare, hanno buttato al vento anche il mio voto. Roma, chi dice appunto soprattutto per la città di Roma, chi dice che in effetti chi vota PD e PDL vota per i partiti che hanno distrutto l'Italia, dice Giampiero. A questo punto è meglio votare 5 Stelle oppure nessuno. Nessuna sconfitta, dice un altro ascoltatore, che io deve continuare con la sua proposta iniziale. Avanti senza alleanza, Massimo Forni da Bologna, solo un po' più di comunicazione. Roma è una città per vocazione partitocratica, parastatale. Roma è ferma all'impero romano, dice Gigi da Milano. Continuate, 349-238-6666. Sentiamo l'intervista a Federica Daga del Movimento 5 Stelle di Alessandra Schepici. Io sono una delle più ottimiste, probabilmente. Io vivo su Roma e quindi ho la percezione del territorio romano che è un territorio molto difficile. In fronte a 5 anni fa abbiamo guadagnato 4-5 volte la percentuale che si ebbe comunque nel 2008. E quest'anno noi facciamo entrare qualcosa come una ventina di ragazzi nel comune di Roma, tra comune e municipi, e quindi è un ottimo risultato. E i risultati che ci sono stati in tutta Italia comunque valgono per il lavoro che è stato fatto sul territorio. Se un gruppo è stato molto forte e ha lavorato molto bene sul territorio, è stato premiato. Chi invece non ha lavorato tanto bene, comunque nuovo e da poco sul territorio, insomma, ha preso quello che era giusto che prendesse. Però si poteva fare di più. Guardi, è una questione territoriale, le comunali. Il voto viene dato alla persona che si conosce. Non è tanto un partito, un simbolo, un qualcosa. Le comunali è un discorso completamente differente. È proprio chi sta sul territorio, chi lavora, come lavora, che cosa si è fatto insieme ai comitati locali, insieme ai cittadini, eccetera. Questo è, e per me è stata comunque una grandissima vittoria. Io dico, io stando su Roma ho visto questo passaggio e diciamo che abbiamo lavorato gli ultimi 3 anni molto molto bene. Però lo stesso Grillo, prendendosela con gli elettori del PD e del PDL che non avrebbero avuto coraggio, che sarebbero stati troppo conservatori, di fatto ha ammesso la sconfitta. Gli elettori, i partiti PD e PDL hanno perso un 40% di elettorato, perché se guarda l'astensionismo è aumentato assolutamente. Quindi anche loro hanno comunque perso sul territorio dei comuni. Ci si sta basando su un voto dato dal 50% dell'elettorato. Io gli dico, il nostro, quello che noi abbiamo preso è stato preso dai ragazzi che hanno lavorato sul territorio. Non è un simbolo, non è un qualcosa di più alto, è proprio una questione territoriale. Le comunali sono una questione territoriale, assolutamente. E questa era Federica Daga del Movimento 5 Stelle. Vorrei, visto che alcuni mi mettono per esempio a raffronto col 2008, io sto parlando di una flessione tra le politiche e le amministrative del 2013 da parte del Movimento 5 Stelle. Questa flessione è inequivocabile, cioè non si può come dire, cambiare quando i numeri sono questi. Ci sono città dove si è passati nel giro di pochi mesi, il Movimento 5 Stelle da un partito del 33, 32, 33% a qualcosa come intorno all'8-9%. Di questo stiamo parlando. Pierluigi dice che se Grillo si fosse alleato col PD avrebbe potuto rovesciare l'Italia come un calzino. Il voto è inutile, non si, mi sento rappresentato da nessuno, non voto più nessuno, scrive Corrado da Como. Ma il voto al sindaco è personale e i 5 Stelle non si conoscono, dice Marilena da Genova. Donatella da Genova dice: ma ci sono dei relitti di partiti al governo e adesso stiamo guardando il Movimento 5 Stelle. C'è chi invece sprona Grillo ad andare in TV, quando ci andrà li distruggerà tutti. Ma se Grillo non vuole usare i giornali, TV, radio, perché ne parlate continuamente? Che se la canti nella sua torre d'avorio della rete ai cittadini normali ha rotto. C'è chi dice, appunto, come Sandro, di essere stufo dei partiti, che però Grillo non è la panacea, che in effetti chi vota PD e PDL vota per i partiti che hanno distrutto l'Italia e così via. Questi sono i vostri nutriti SMS al 349-238-6666. Grazie ancora, ci risentiamo come sempre domani alla stessa ora.